racconti della belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori del 24 in questo sabato che oramai prelude a Natale, sabato 19 dicembre, auguri che si chiama Berardo e questo sabato prenatalizio i compari dei Conti della Belva vi salutano e vi portano i loro regali per Natale che sono come sempre il tentativo di darvi una buona informazione di quelle che proprio non è facile ottenere perché su questi temi dell'economia, delle banche, della finanza eccetera il nostro compito è vedere le cose come stanno, dirvele e non infiorire. Fiorettarvele, ma innanzitutto i saluti dei compari Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Renato Cifarelli oggi ci raggiunge più tardi, qui Oscar Gino che vi ringrazio per l'ascolto, vi ricorda il numero di telefono per intervenire 800 24 0024 e per le vostre opinioni con gli sms 349 238 6666. Ricordo anche che ci trovate con questo stesso numero su WhatsApp, quindi messaggi gratis, ma tanto la maggioranza voi avrà capito come si fa con i gestori telefonici, cioè avere i pacchetti di sms gratis, comunque voglio sperare. Allora, di che cosa parliamo in questa trasmissione? Cominciamo come sempre con la rubrica con Mario Seminerio che ci aggiorna su come vanno i conti pubblici italiani, i conti dell'occupazione italiana e dobbiamo per forza guardare anche un po' a cosa succede nel mondo perché insomma la Fed ha rialzato i tassi, vediamo che cosa ci aspetta alla luce di questa divergenza del comportamento delle banche centrali. Dopodiché abbiamo due bei blocconi, il primo è dedicato a che cosa succede nel resto delle banche italiane dopo le polemiche e le cose ancora non chiare sul decreto di risoluzione delle quattro banche che ieri ha portato il governo a rispondere alle mozioni di sfiducia sulla Maria Elena Boschi. Noi ci concentriamo più che sul terreno politico, sul cuore, sulla sostanza della cosa, proprio oggi e anche in questi minuti è in corso l'assemblea di Veneto Banca che deve decidere sì o no alla trasformazione in SPA, alla quotazione in borsa, all'ennesimo aumento di capitale di 1 miliardo. Parleremo di questo, parleremo di Popolare di Vicenza, parleremo di MPS, parleremo del sistema delle banche di credito cooperativa. Proprio ieri sera è andata in risoluzione attraverso un salvataggio la banca di credito cooperativo padovana ed è stata la banca di credito cooperativo di Roma che era maggiore d'Italia ad assumersene l'onere, è la prima di una lunga serie per così dire anche in quel caso e quindi ci concentreremo con degli ospiti sulle banche, che cosa si rischia, cosa non si rischia, alla luce anche di questa svolta di Renzi che il Consiglio Europeo ieri ha picchiato i pugni sulla testa della Germania, che cosa vuol dire rispetto a questo dossier. Secondo bloccone questa settimana, grande novità, il piano industriale di Cassa Depositi e Prestiti è stato presentato in un clangore di trombe, pifferi e tamburi ed è stato annunciato sui giornali italiani come la svolta di un grande strumento operativo ormai della politica del governo. Questo piano 2020, 160 miliardi per la crescita, quindi Cassa Depositi e Prestiti moltiplica le risorse a disposizione della crescita italiana, delle infrastrutture, degli enti locali, delle imprese direttamente, diventa una specie, con soldi garantiti di raccolta postale, una specie di grande mediobanca privata. Ma se è privata perché allora non la privatizziamo? No, questa è banale domanda del provocatore, però tenteremo di capire cosa c'è di credibile davvero in questa moltiplicazione di numeri e cosa c'è di nuovo rispetto a quello che Cassa Depositi e Prestiti ci ha abituato a vedere, cioè una specie di fondo raccolta delle non privatizzande pubbliche che si fingevano di privatizzare solo perché è fuori dal recinto pubblico, CDP restando pubblico, e ci porremo un interrogativo di fondo, ma non diventa appunto una finta mediobanca privata ma semplicemente una cabina di regia totalmente irresponsabile, perché le vecchie partecipazioni statali dovevano rispondere a un ministero, al Parlamento. Qui col col velo di essere fuori dal recinto pubblico, in realtà la catena di controllo diretta è governo, amministratori di Cassa Depositi e Prestiti, e quindi loro decideranno i settori in cui intervengono, chi rilevare, dove sì, dove no, per risorse di questo ammontare garantite dallo Stato e di raccolta postale. Vi piace? Non vi piace? Noi tenteremo di capirlo meglio, di spiegarlo, e poi naturalmente sentiremo Rita Fatiguso da Pechino. La settimana scorsa il collegamento è saltato per un problema su Skype, speriamo che oggi funzioni, e poi concluderemo con Renato Cifarelli, Non si può fare. Ma caro Mario e caro Carlo Alberto, in questa settimana che cosa oltre a questo vi ha colpito? Allora, io ieri stavo ascoltando un'intervista a un commissario dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, al quale è stata rivolta la domanda: ma c'entra qualcosa l'Autorità Nazionale Anticorruzione con l'eventuale arbitrato a favore dei risparmiatori, che per ora mettiamo tra virgolette truffati, poi la realtà, la verità si accerterà? E lui ha risposto: certo che c'entra, perché l'Autorità Nazionale Anticorruzione si occupa di trasparenza. E questo è quindi una questione. Per cui io ho solo due considerazioni da fare: uno, che qualcuno in questo paese sta perdendo la testa, e due, che mi pare che il concetto di trasparenza esteso in una maniera così iperbolica porti a esorbitare dalle proprie competenze. Ricordiamolo che la leggendaria camera arbitrale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui tutti parlano e con cui tutti si sciacquano la bocca in questi giorni, in queste ore, si occupa di appalti pubblici, per cui c'è un problema di competenze. E infatti, tra coloro che le compone, giuristi e magistrati, ci sono emeriti o docenti di diritto internazionale, di diritto costituzionale e di diritto amministrativo. Nessuno di intermediari finanziari o di materie economiche. Io capisco, Oscar, dover, diciamo, fare star ferma un giro alla Consob, chiamiamo le cose col loro nome, no? Per tutto quello che c'è stato, ridefinire le competenze, la vigilanza, eccetera. Però forse era meglio creare un organismo ad hoc, magari a termine specifico, prendendo delle professionalità e delle personalità, diciamo, di chiara fama e competenze e quant'altro. Però sempre questo ricorso a... È una classica pezza inventata con Nemo Kid Cantone. Esatto, perché non è neppure nell'interesse, secondo me, del dottor Cantone questa sovraesposizione, questa figura da Deus ex machina su competenze che mi lasciano veramente perplesso. Questa è una torsione della fisiologia di un paese e questo è oggettivamente un problema. Carl Albert. Io devo chiedere un po' più di spesa pubblica stamattina, ragazzi. Succede, sì, ma mi basta quella per i francobolli, Oscar, devo dire sinceramente, un po' di francobolli. Mi fate spezzare una lancia a favore dell'amico Tito Boeri, che sta cercando faticosamente, quasi da solo, presidente dell'INPS, di mettere un po' di trasparenza, questa sì, vero, sì. In uno dei più complessi, torbidi, posso dire, anfratti dello Stato che abbiamo. Tito non è, cioè, diciamo, l'INPS non è riuscito a farsi approvare un emendamento che avrebbe consentito l'invio delle famose buste arancioni, che sono una specie di cartolina a precetto che gli dice: ricordati che devi morire povero, cioè ricordati che avrai una pensione fondamentalmente da fame in linea con i tuoi contributi. Cioè un'operazione che per la prima volta avrebbe comunicato agli italiani su quanto effettivamente si devono aspettare per la pensione, specialmente i più giovani. Quindi un'operazione importante, perché avrebbe spezzato quella cappa di omertà, se volete. E niente, il Parlamento non ha approvato la spesa per il francobollo, Oscar, e peraltro follia. Siccome i PIN che servono per farlo via Inter, che sarebbe anche la cosa migliore per farlo, vanno comunque spediti oppure presi all'INPS, non è facilissimo che milioni di italiani si avvicinino. Quindi un'occasione perduta, secondo me gravissima, per dare un po' di trasparenza vera questa volta. Naturalmente, sia dannato che pensa male, nel voto che ha negato questa spesa aggiuntiva di francobolli all'INPS, inutile pensare che si sia espresso il vero giudizio della politica nei confronti di Tito Boeri, che dai politici non è sopportato, perché vorrebbero il presidente dell'INPS muto che non parlasse mai. E allora, caro Tito, quando poi chiedi una cosa in Parlamento ti rispondono così. Ecco, più o meno questa è la pernacchia. Abbiamo avuto quest'anno il pesce d'aprile a Natale, insomma, questa notizia. Esattamente. Allora, ci sentiamo tra un minuto, intanto informazione stradale, poi cominciamo con il blocco sulle banche, con l'orecchio all'assemblea di Veneto Bank. Because della belva. Eccoci tornare qua in diretta a 10:19, primi 26 in questo sabato pre-natalizio, sabato 19 dicembre. Occupiamoci un pochino dei banchi. Io non riserverei grandi commenti a quello che ieri e il giorno prima ha suscitato i grandi entusiasmi della politica, Mariana Boschi, eccetera, eccetera. Lì si vedrà, le responsabilità del padre verranno accertate, ci sono indagini della magistratura, è già stato sanzionato. Noi quello che interessa approfondire è la condizione del sistema bancario italiano, che cosa avviene nel prossimo futuro per le banche più esposte. Ci sono diversi filoni, c'è MPS che è in condizioni sempre più preoccupanti. Il 31 dicembre scade lo cap del governo, il governo del 4% della quota. Il governo aveva annunciato che avrebbe proceduto a un'uscita del capitale della banca in maniera morbida, sì, ma molto rapida, così aveva detto a luglio, dicendo tanto non ci sarà problema. Aveva sempre capito che così si costruiva un ponte verso un nuovo soggetto che poi avrebbe dovuto rilevare e risolvere il problema delle gravissime esposizioni ancora oggi di questa banca, rispetto a poco più di 3 miliardi di capitalizzazione, più di 25 miliardi di esposizione alle sofferenze nette. Se si guardano tutti i lordi sofferenze in Caglia, siamo ancora a una cifra di intorno a 45 miliardi, 6 miliardi di subordinate e così via. Questo non avverrà perché il governo non avrà chi vendere, resterà nel capitale. C'è poi il problema delle fusioni tra popolari, quelle interessate dal decreto di un anno fa, e proprio come vi ho detto è in corso stamattina l'assemblea di loro, Veneto Banca. Stiamo parlando di più di 2 miliardi di perdite in 3 anni, un aumento di capitale autorizzato dalla Banca Italia nel 2014, quando leggiamo che Banca d'Italia aveva già opinioni successive sul fatto che naturalmente il valore di quel titolo a cui è stato autorizzato l'aumento di capitale non era affatto il valore che poi infatti è stato drasticamente tagliato da 39,5 euro a un diritto di recesso attuale di 7,3 euro, e i soci devono votare sul tamburo per la trasformazione in SPA, devono accettare quotazione, devono accettare poi di essere comprati, altrimenti il 9 dicembre la BCE gli ha scritto siete in risoluzione e in bail-in. C'è la situazione sullo sfondo dei popolari di Vicenza, numeri un po' diversi, ma anche lì un'azione a valore di libro che oggi è senza mercato e che impedisce a chi ce l'ha in mano di venderla. È la stessa condizione di 1.200.000 azionisti di tutto il sistema delle 374 banche di credito cooperativo, di cui proprio ieri quella di Padova è andata in risoluzione e affidata alla BCC di Roma. Ma lì c'è un grande progetto, c'era un grande progetto, una grande ipotesi di federazione alla francese per avere un Crédit Agricole, ma anche quello è un sistema con 1,2 milioni di soci che hanno delle quote oggi totalmente illiquide, che non hanno mercato, è un sistema corto di capitale, avaro e preistorico nelle regole del risk management e del controllo di gestione. Ecco, questa è la condizione che è di fronte a noi, e a questo punto chiederei un secondo a Carlo Alberto e a Mario, ma voi in realtà cosa vi aspettate, visto che anche la cooperazione tra regolatori è un po', fa un po' scintille, perché abbiamo avuto il governatore della Banca d'Italia che è andato al Quirinale, Vegas ci andrà la settimana prossima da quello che ho saputo, che dici Carlo Alberto? Ma io voglio iniziare il problema da un'altra parte, quella industriale. La verità è che ci aspettiamo tutti interventi dall'alto, decreti del governo, interventi della BCE, e che arriveranno alla spicciolata nei prossimi mesi e nei prossimi giorni forse, penso al credito cooperativo, sicuramente stiamo parlando di giorni o settimane. In realtà c'è un problema industriale sottostante, cioè fare banca all'italiana nel 2016 sarà praticamente impossibile per una struttura di costi, per un modello organizzativo, per i vincoli di verifica e di compliance. Quindi ciò che non potrà la politica o l'intervento regolatorio, guarda che implicherà l'evoluzione naturale. Ti faccio un solo esempio: un'intera asset class, cioè le obbligazioni bancarie, rischia di sparire dal portafoglio degli italiani perché è semplicemente inemettibile e insottoscrivibile per la reputazione che ormai si è fatta, perché è così esposta al bail-in, cioè al di fatto allo scarico sul sottoscrittore del rischi di tutela del capitale, che praticamente sparirà. Siccome è stata onestamente la prima fonte di capitale delle banche italiane in questi 10 anni, capisci, quando tu sottrai centinaia di miliardi di credito facile, quindi di raccolta, a prezzi che non rispecchiano il reale rischio sottostante, tu stai togliendo benzina a un intero sistema. Questo secondo me è il sottobosco al quale dobbiamo guardare per capire cosa succederà nel medio termine. Nel breve termine le speculazioni sono aperte, ma qui sento magari Mario. Ma sì, allora le banche hanno avuto un problema di raccolta, no? La raccolta diretta, quella che si fa con i depositi, i certificati di deposito, la raccolta indiretta che si fa con le obbligazioni. È chiaro che questa vicenda del bail-in, delle subordinate e quant'altro spingerà le banche. Innanzitutto le banche saranno discriminate in funzione della loro qualità, perché non tutte le banche sono uguali, questo mi pare abbastanza evidente. Dopodiché si è già aperta la strada dell'emissione dei covered bond, che praticamente sono obbligazioni senior garantite da debito sottostante, da crediti sottostanti delle banche, che quindi sono assolutamente sicure anche nella posizione del bail-in. Dopodiché le banche una buona parte dei loro fabbisogni di raccolta ora le stanno colmando ricorrendo alla BCE, per cui diciamo a martellate il sistema sta cercando faticosamente di trovare un punto di equilibrio. Ci sono nel sistema bancario delle aree grigie, delle aree di sofferenza, delle aree e dei nodi che arriveranno fatalmente al pettine nei prossimi mesi, perché questo è un dato oggettivo. La stessa iniziativa del governo di razionalizzare il settore delle BCC, che è un'iniziativa che io vedo positivamente, anche perché tanti, non ci sono alternative. Esatto. Naturalmente io vedo positivamente il concetto di intervenire a razionalizzare il settore, poi come sempre est modus in rebus, perché si possono anche fare delle enormi porcate in quel senso lì, però anche lì c'è un problema, e il problema sarà ancora una volta quello delle sofferenze del comparto delle BCC. Verrà creata questa holding sotto forma di società per azione. Dove finiranno le sofferenze delle BCC? Cioè il sistema è assolutamente in divenire, siamo in una trasformazione epocale, in una crisi di trasformazione. Non siamo qui ovviamente a seminare il panico, perché ci sono segmenti del sistema bancario italiano che manifestano solidità e comunque sono, come dire, sul pezzo e in palla per capire dove ci stanno portando i tempi, però forse sarebbe meglio evitare di piantarla, di dire che la Germania ha pagato 270 miliardi le sue banche, che peraltro poi non è nemmeno vero, perché non sono soldi materialmente sborsati, sono garanzie, sono asset relief, sono tutte cose che poi rientrano ai contribuenti come valore aggiunto, quindi non sono pozzi senza fondo, ma di questo ne parleremo e ne scriverò anche sul mio sito. Però ripeto, quello su cui i risparmiatori devono fare attenzione, devono essere consapevoli, è che il sistema italiano del credito è in una trasformazione epocale e non è più possibile spingere la spazzatura sotto il tappeto, magari con qualche bel discorsetto, esatto, e qualche parolina di circostanza. Allora, io ho voluto premettere queste osservazioni di Carlo Alberto e di Mario la rubrica che parte adesso, invece, perché voglio invitare tutti coloro che sono in ascolto a riflettere sul fatto di come ci vedono in Europa rispetto alla nostra cosa che addossa la colpa agli altri. Oggi trovate sul Corriere della Sera un'intervista a Lars Feld. Lars Feld è uno dei 5 saggi economici che consiglia il governo tedesco, e la sua opinione è chiara: i conti delle banche italiane dicono che vi servirà un salvataggio europeo e che dovrete massicciamente colpire i risparmi privati, perché altrimenti non avete il modo di riprendere rispetto alla massa di credito deteriorato che c'è nella pancia delle banche italiane. Questo lo trovate sul Corriere della Sera, e questo signore, questo è quello che dice al governo tedesco. Allora, bisogna misurare a questi giudizi quello che invece vi racconta il governo italiano e i regolatori italiani. Partiamo secondo con la sigla però di A che punto è la crisi. Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Eccoci. Ho voluto premettere queste considerazioni sul sistema bancario, non so, per acchiapparvi in ascolto, perché poi continueremo a parlare di banche. Però Mario, perché questa settimana in realtà abbiamo avuto alle nostre spalle non solo nuovi assessment su trimestrali sul lavoro, però insomma anche sui conti della finanza pubblica italiana forse c'è qualche cosa da dire. Che pensi? Guarda, io non so, la cosa che mi ha colpito molto questa settimana, che è una settimana diciamo abbastanza così concentrata e focalizzata sul tema delle banche, mi ha colpito molto una frase di Renzi, quando Renzi ha detto: stiamo combattendo l'evasione fiscale perché il gettito d'imposta cresce più dell'aumento del PIL. Del PIL. Ma benedetto ragazzo, ma perché fai così? Perché? Cioè, esiste una cosa chiamata stabilizzatori automatici, tale per cui quando aumenta il PIL, il gettito fiscale nominale, per definizione, aumenta di più. È fatale, aumenta di più il gettito IVA, aumenta di più il gettito IRES, in misura minore, ma comunque aumenta anche il gettito IRPEF, senza andare a scomodare il fiscal drag da inflazione, perché esatto, in questo momento inflazione non ne abbiamo, ma stiamo parlando proprio di grandezze che sono molto reattive al ciclo economico, anche in condizioni di lieve ripresa. Ora, io capisco la come dire, propaganda, la follia, la transagonistica e tutto il resto, ma non si può, ma deve essere anche, deve esistere un limitatore di giri alle cazzate. Non è, abbiate non pazienza. Mario, poi, è un'illusione razionale. No, ho capito. Poi vabbè, abbiamo visto il manifesto del Partito Democratico con Tax Wars, no, per celebrare il funerale dell'IMU, anzi della TASI sulla però, prima casa. Una cosa era chiara, però, dell'avvio della grande campagna Star Wars, Tax Wars da parte del governo, che lo Stato e il lato oscuro della forza. Questa è la mia questa opinione. Questa è l'unica certezza che abbiamo, diciamo. Sì, sì. E quindi, insomma, abbiamo appreso che il Presidente del Consiglio considera una cosa positiva il fatto che a bassa crescita del PIL le entrate crescono di più. Sì, questo. Naturalmente, dal punto di vista dei dati dell'occupazione, questa settimana ulteriore conferma, per così dire, perché non sono dati particolarmente nuovi, però i criteri di lettura assestati di quello che sta avvenendo, anche in quel caso, dicono, e con conferma internazionale, che, perché la BCE in questo, quando nel suo bollettino dà una lettura che conferma quello che vi abbiamo sempre detto, ancorati ai dati, cari ascoltatori, qui non è un ufficio di propaganda né pro né contro, però i dati continuano a dire che rispetto a chi ha riprese aggiuntive molto rilevanti all'interno dell'euroarea e comunque dell'Unione Europea di occupati, noi questo 2015 viene messo nell'archivio dati come un incremento non troppo rilevante. Se guardiamo agli incrementi a cui il governo puntava molto sul totale degli occupati, di coloro che hanno un rapporto a tempo indeterminato, quelli del 2014 senza decontribuzione sono superiori a quelli del 2015, sì, che la dice tutta. Sì, sì. Infatti, è una ripresa congiunturale, e molte di quelle assunzioni ci sarebbero già state. Quindi ci sarebbero comunque state, e il recupero diciamo del precariato, quindi dei tempi determinati con le trasformazioni in indeterminato, è l'unica cosa che giustifica la decontribuzione. Come abbiamo detto più volte, però, attenzione, perché sta esplodendo il fenomeno dei voucher, per cui non vorrei che il precariato uscito dalla porta rientrasse dalla finestra, esatto, trionfalmente dalla finestra. Cui il quadro d'insieme, poi vabbè, si potrebbe anche parlare di Renzi che si è trasformato in una sorta di grillino OGM andando a rimbrottare la Merkel. Su alcune cose ha ragione, su per Nord esempio Stream, secondo me sul raddoppio di Nord Stream credo che Renzi abbia assolutamente ragione. Viva, viva. Su altre cose, sull'unione bancaria, ma è evidente che i tedeschi frenano sul completamento dell'unione bancaria. Quello che ho detto prima, esatto, è la spiegazione. Esatto. Ma il motivo è banale, perché i tedeschi sono preoccupati che le banche italiane con i titoli di Stato italiani in pancia abbiano una rischiosità loro specifica. Ricordiamo che con l'Unione Bancaria Europea, quando una banca va in dissesto o una serie di banche, ad esempio perché c'è una crisi a livello di paese, prima si fa il bail-in, quindi fino all'8% del totale di passivo e mezzi propri. Dopodiché entra il fondo di risoluzione. Tra qualche anno i fondi di risoluzione nazionali confluiranno come versamenti nel fondo europeo. Se non fosse capiente tutto il discorso, si porrebbe un problema di finanziamenti europei al paese, cioè come ha fatto la banca illo tempore. È evidente che i tedeschi stanno progressivamente arretrando e trincerandosi nel loro fortino, dicendo: qui stiamo chiudendo il ponte levatoio, ogni paese per sé e il padre eterno per tutti. Quindi esatto. Il fatto che Renzi rivendichi la flessibilità e tutto quello che volete voi, d'accordo, ci può stare, ma attenzione, perché il problema del debito pubblico italiano è lungi dall'essere stato risolto, e vedremo se e come piegherà il rapporto debito-PIL a partire dall'anno prossimo. Anzi, diciamo che siccome per piegare il rapporto debito-PIL dall'anno prossimo è tutto appeso sulla componente nominale della crescita, esatto, i dati recenti sono in controtendenza rispetto alle attese. Avete visto questa settimana sono usciti i dati sull'andamento dell'inflazione su 11 grandi città italiane, sono praticamente tutte col segno meno e in accentuazione, cioè in controtendenza rispetto al fenomeno che sembrava fino a due mesi e mezzo fa riprendere, quello dell'andamento dei prezzi al consumo. È perché c'è il mondo, non ci possiamo tirare fuori dal mondo. Questa settimana Brasile downgraded, Argentina settimana però l'Argentina si è rimessa in strada, esatto, verso la realtà. Naturalmente sarà colpa del liberismo, perché però, la realtà ha un enorme bias liberista, come ho scritto sta settimana, ecco. Venezuela e così ma via. Di Fed non vogliamo parlare, ragazzi. Esatto, beh, questo stavo dicendo. Io questo stavo quarto di punto, che in realtà è un quarto di punto di storia, perché dopo tutti questi anni è il primo segno di un'economia che crede ancora in se stessa, anche se con una prudenza estrema, se devo dire. Per me è un segnale interessante quello dell'America, che dice il denaro torna a costare, almeno in piccolissima proporzione al rischio e al tempo. Tu, Mario, cosa ne dici? Sì, la strada è avviata. Naturalmente io, anche per il lavoro che faccio, sono costretto a seguire le paranoie altrui, oltre che le mie, ma quelle me le gestisco autonomamente. Le paranoie altrui sono: e adesso quando ci sarà il prossimo rialzo? Avete visto che gli ultimi due giorni di borsa americana hanno indicato proprio un crescente nervosismo, perché con il greggio che sta ancora sbriciolandosi e con l'incertezza che cresce, già sono partiti i sondaggioni del tipo: ma forse la Fed alza ancora a marzo? Per cui da qui a marzo, paranoia a go-go. Temo, per chi fa il mio lavoro, ve lo dico, che nella puntata, sia pur breve, ma che faremo di inizio anno, questo sarà uno dei temi ridondati. Vi chiederò a ciascuno di voi qual è la stima di aumento del tasso americano per il 2006. Perché tanto io, qualunque intervista mi faccio, iniziano tutti così: dico, guardate, io faccio un altro mestiere, divino Telma, per queste cose qua. Però bisogna anche ammettere che i tassi a zero nella storia non possono stare sempre lì, quindi, cioè, dal mio punto di vista deve costare una cifra ragionevole, sai, magari che questo non l'8%. Però è un grande dibattito aperto tra scuole di economisti, perché se, piccolo inciso, questa settimana, anzi proprio l'altro ieri, il ministro dell'economia italiana ci ha detto che lui appartiene a questa visione della secular stagnation, alla stagnazione secolare, quindi Larry Summers, Paul Krugman e così via. Per loro altro che, cioè per loro diventa una specie di new normal il fatto che per una serie di componenti, la bassa produttività, non ci sono più grandi sbalzi tecnologici. Loro dicono quello, io non so se crederci. La componente demografica, eccetera eccetera, bisogna abituarsi a considerare ordinarie le politiche non ordinarie, e quindi tassi negativi protratti non so per anni, magari per decenni, come la condizione rispetto alla quale dare delle leve per consentire le politiche di bilancio da una parte, e poi a un orizzonte di investimento, come dire, senza l'assillo di un calcolo nel medio lungo periodo del ritorno. È una condizione che a me pare da brivido, ma loro sono convinti che serve questo. Però caro voi sapete che io sono un keynesiano travestito, certo, no? Anzi, ma nemmeno troppo travestito, assolutamente non travestito. Per cui io, doc non corrotto io, dal fatto io, di io ho il poster di Paul Krugman sopra il letto, per cui no, vabbè, a parte questo, io non sono completamente in disaccordo con la teoria della stagnazione secolare che è stata rilanciata da Larry Summers. Ora è vero che è stata rilanciata anche in Italia da Piercarlo Padoan, diciamo, per contesti puramente domestici, però attenzione, cioè nel mondo c'è una grosso gap, un grosso buco di investimenti, e persiste questo grosso buco di investimenti. Non è solo una realtà italiana, no, certo, o della miseranda Europa della moneta unica, questo è un problema planetario. Per cui è vero che per chi ha solo un martello, diciamo, no, ogni problema è un chiodo. Mi riferisco a quelli che, ma se uscissimo dall'euro? No, attenzione, perché le cose sono lievemente più complesse di così. O posso fare un piccolo inciso, che oggi sto parlando oggettivamente troppo. No. Noi abbiamo un ascoltatore che stamattina, siccome è questo l'angolo del counseling psicologico, esatto, dobbiamo cercare di aiutarli e affrontare il loro disagio. Abbiamo questo ascoltatore che non si firma, ma il numero è reiterato, diciamo. Primo messaggio: fate schifo, un trio di buffoni travestiti da economisti. Vabbè. Dopodiché, messaggio immediatamente successivo della transagonistica è: senza interlocuzione non è informazione, ma solo un monologo a tre voci. Il monologo a tre voci interessante. Un monologo a tre voci, vergogna! Allora, caro ascoltatore, visto che lei usa un telefono cellulare, faccia una bella cosa. Telefoni alla nostra redazione, chieda di parlare, esprima tutte le sue frustrazioni e i suoi problemi esistenziali e noi cercheremo di aiutarla nei limiti della nostra fallibilità e della nostra pochezza. Sia gentile, lo faccia, vedrà che poi si sentirà meglio. Torniamo tra un minuto. Della belva. Ed eccoci tornati in diretta con i compari dei conti della belva. Stiamo parlando di banche, la lunga coda che durerà appunto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Vi ho letto dal Corriere della Sera di oggi cosa pensa uno dei cinque saggi del governo tedesco sull'economia, sul fatto che l'Italia dovrà colpire i risparmi privati. Voi avrete bisogno di un bel po' di risoluzione bancaria, forse vi servirà un salvataggio dell'Unione Europea. Allora, ci hanno raggiunto due ospiti per esaminare alcune questioni di cui noi preferiamo che si parlasse rispetto alle urla su boschi sì, boschi no, sul padre, tanto le responsabilità del padre verranno accertate. Allora, sono con noi Marcello Esposito, che insegna International Financial Markets alla Castellanza, all'Università Cattaneo di Castellanza, e scrive su diversi quotidiani. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi. E Carlo Milani, economista del Centro Europa Ricerche. Grazie anche a Carlo Milani. Buongiorno e grazie per l'invito. Allora, inizierei con una domanda a Carlo Milani, che ha pubblicato sul sito Cero, potete trovare un articolo sui salvataggi bancari, serve maggiore trasparenza. A me piace molto questo tema, perché se andiamo a vedere come funziona negli altri paesi, in realtà il nostro impianto regolatorio è molto lacunoso. La riformetta che si fece nel 2005 dopo le scalate balancarie, che finirono in altrettante vicende giudiziarie e che comportarono una grave crisi al vertice di Banca Italia, in realtà hanno lasciato l'impianto dei vigilanti, Banca Italia, Consob soprattutto, più o meno come prima, cioè la loro collaborazione è affidata a qualche gesto volontario. Oggi sul Messaggero mi sono sforzato di fare un po' di esempi come si potrebbero prendere dagli altri ordinamenti senza scardinare troppo le competenze di cui Banca Italia e Consob sono gelosissimamente protesi a vincolare, però si potrebbero importare delle cose che ci servirebbero. Per esempio, l'ombudsman che c'è sia in Gran Bretagna e in Finlandia risolverebbe il problema ed eviterebbe di andare a chiedere all'ANAC, che non c'entra niente, per fare gli arbitrati. L'ombudsman del credito in altri ordinamenti c'è ed è una istanza di compensazione, di valutazione dei compensi per agire truffe al credito e risparmio, che non c'entra niente con voler risolvere il tutto invece con la via giudiziale, che è un'altra cosa, come ovvio. E poi tra Consob e Banca Italia, che oggi non cooperano per niente praticamente, pensate che Consob non può neanche chiedere, come giustamente ci ricorda Carlo Milani, particolari preventivi o in corso alle procedure di risoluzione a Banca Italia, non può fare nulla, Consob deve rimane zitta. Invece in Germania, tra BaFin, l'equivalente della Consob, e Bundesbank, ci sono tre diversi livelli di cooperazione obbligata per legge, quindi sono obbligati a sapere l'un l'altro, a scambiarsi dati, a b, a sedere in un comitato dove c'è anche il governo per valutare caso per caso cosa fare, c, concordare le operazioni di intervento all'interno del sistema. Voi dite che non abbiamo bisogno? Io penso che noi ne abbiamo assolutamente bisogno. Che dice Marcello Esposito? Ma senz'altro, la vicenda delle quattro banche, ma abbiamo avuto anche in passato esempi di una scarsa collaborazione che poi si è riflessa nell'efficacia dell'azione di, più che di vigilanza, dell'azione di poi dopo di salvaguardia dei risparmiatori. E qui appunto, come lei diceva giustamente, periodi precedenti e anche prima della trasmissione, il vero problema secondo me è la protezione del consumatore, inteso consumatore e risparmiatore, che in Italia è molto carente. Siamo magari bravissimi a tutelare il consumatore nell'ambito alimentare, ma nell'ambito finanziario siamo ancora, non dico all'anno zero, ma insomma siamo molto vicini. Lei, in un articolo che ha pubblicato l'inchiesta, il cui titolo è "Le banche fregano i clienti, il governo dorme", e torna sul tema proprio della tutela del consumatore. Noi stessi ci occupammo con un articolo mesi fa di Zenti, che diceva la retrocessione agli operatori del mercato di 23 miliardi di euro l'anno tra i diversi oneri per farsi gestire il risparmio, è un'idea di quanto pesi questo problema del conflitto di interesse nel sistema finanziario italiano. E pur tuttavia, i regolatori italiani, Banca Italia e Consob, dicono ciascuno di aver fatto quello che dovevano. È così secondo lei? Ma stando alla norma, senz'altro. Però visto che lei ricordava l'articolo di Zenti, che è uscito poco prima o poco dopo, non so se vi ricordate, quest'estate ci fu la Consob che fece uscire una circolare in cui sostanzialmente invitava le società di gestione del risparmio e le banche ad una maggiore attenzione nei confronti di certe strutture commissionali che sono vietate in Italia, ma che si possono applicare ai fondi comuni di diritto estero, per esempio di natura lussemburghese o irlandese, che in Italia, come voi sapete, sono molto ben distribuiti, ormai hanno superato da tempo i fondi di diritto italiano. E in quel periodo lì ci fu poi dopo un crollo delle quotazioni di alcune società di gestione risparmio e di distribuzione, che di queste commissioni ne fanno ampio uso. Però ecco appunto una circolare per dimostrare come effettivamente in Italia noi paghiamo e abbiamo dei costi al di là della vicenda delle quattro banche. Questo riguarda l'intera industria del risparmio. Abbiamo un intero sistema dove ci sono dei buchi considerevoli e dove bisognerebbe dare di lena per cercare di coprire queste buche. E abbiamo l'occasione della MiFID 2, non so quanto il governo ne sia consapevole che c'è questa MiFID 2. MiFID 2 in realtà secondo me vede gli operatori e anche un po' i regolatori volerla diluire, allontanarla nel tempo e diluire il più possibile. Informiamo i nostri ascoltatori, è in corso per esempio un dibattito parlamentare per l'ennesima volta su i consulenti finanziari, e noi ci battiamo per la consulenza finanziaria, caro Alberto, indipendente, perché è quella che serve ovviamente a evitare il conflitto di interesse innato e insito nell'offerta dei prodotti finanziari al risparmiatore / investitore. E ancora una volta in Parlamento, proprio in questi giorni, non si riesce a fare un passo avanti concreto, perché anzi, una volta che sembra che la consulenza finanziaria indipendente faccia un passo avanti nel testo all'esame del Parlamento, sparisce oppure diventa autonoma. C'è una manina che lo sottrae, perché i promotori, che sono quelli che danno i più soldi attraverso l'albo alla Consob, vengono tutelati, cari amici promotori. Noi la vediamo un po' brutalmente così, mentre invece il consulente indipendente sarebbe la soluzione per evitare che l'emittente bancario, nel caso della banca, che vi piazza il titolo. È ovvio che c'è un conflitto di interesse. Pretendete che ci sia un'informazione simmetrica al cliente quando il titolo è emesso da chi ve lo propone? Torniamo tra un minuto. Della belva. Eccoci tornati in diretta, stiamo parlando di banche, abbiamo sentito il parere di Marcello Esposito. Sentiamo, c'è un ascoltatore che ci chiama da Milano, Michelangelo. Prego, Michelangelo. Sì, buongiorno. Io volevo fare soltanto un'osservazione. A me questa operazione in Cantone, che inizialmente l'avevo festeggiata come un buona operazione di Renzi, anche presa con le molle, poi mi sono reso conto, soprattutto dal primo intervento che avete avuto voi, che è una chiaramente un'operazione di marketing politico. Cioè il fatto che comunque Cantone, che è una persona rispettabilissima, certo, abbia avuto successo con l'operazione Expo, però non ha la struttura, e questo l'avete detto molto bene voi, e complimenti per la vostra trasmissione di cui seguo ormai da anni. Ma è proprio questo che manca, cioè questo, io credo che il governo Renzi stia facendo un errore clamoroso in questo periodo, cioè di fare troppi annunci su situazioni che su strutture che non c'entrano diciamo Michelangelo, che l'intervento di risoluzione per decreto sulle quattro banche, dopo che era stato raccontato a tutto il mercato italiano e in primis quindi agli azionisti, obbligazionisti e correntisti delle banche italiane, che non avevano niente di preoccuparsi perché avremmo avuto la bad bank all'italiana, avremmo avuto alla peggiore dei casi l'intervento attraverso il fondo di garanzia dei depositi, senza quindi coinvolgere gli obbligazionisti e senza far temere a nessuno. Ecco, qui c'è un problema anche che riguarda i regolatori, ed è evidente che il governo non si fida dei regolatori. La frase di Renzi quando ha parlato dell'ANAC è: preferisco un soggetto terzo trasparente, poi ha aggiunto trasparente ed efficiente. Come dire, Banca Italia, Consob, no, una schifezza, quindi, una schifezza. Allora capisce che un Presidente del Consiglio, poi, che per certi versi posso capire, quando però con i problemi di cui stiamo parlando oggi sullo sfondo su cui bisogna intervenire parla in quella maniera su Bankit Consob, e insomma si crea una condizione istituzionale abbastanza tale per cui tutti si riversano al Quirinale, ecco, tra le altre cose. E tale per cui secondo me sarebbe un bene invece che adesso questi signori dessero una prova di autoavanzamento di proposte di riforma, per così dire, della loro cooperazione obbligata, perché sennò non ne usciamo. L'ANAC, come dice lei, se uno va a vedere la camera arbitrale dell'ANAC, che competenze ha? Nessuno di loro è competente per valutare questo, però è trasparente, no. È trasparente. Camera arbitrale è fatta di vetro, e infatti proprio, noi proponiamo che l'ANAC serva anche ai crocicchi a pulire i vetri della automobile, perché la trasparenza per essere sicuri nel traffico, caro Carlo Alberto, è fondamentale. Sto guardando l'articolo proprio di Milani, che parlava proprio dell'obbligazione bancaria. Sarà che c'ho la fissa stamattina sull'obbligazione bancaria, però perché purtroppo c'è una perdita di credibilità di Consob e di Banca Italia? Basta guardare i numeri: avere tollerato, addirittura facilitato la vendita di obbligazioni bancarie in quantità che non hanno paragoni in Europa, cioè rappresentano più dell'11% del patrimonio finanziario degli italiani, l'obbligazione bancaria. Bravo. Quando in Spagna sono l'1% e quando in Inghilterra e in Francia manco sanno che cosa sono, no? E noi abbiamo finanziato per centinaia di miliardi le banche grazie a Banca Italia e Consob, che sostanzialmente collaboravano a questa forma di raccolta sotto prezzi di mercato. E purtroppo sono i numeri che parlano, c'è poco da dire. Sono i numeri, capisci? Che parlano, e Carlo Milani, secondo me, io ne incoraggio la lettura, perché è uno di coloro, insieme a noi, che si battono anche lui per un ruolo più esteso per contenere i conflitti di interesse della consulenza indipendente finanziaria, certo. Carlo Milani, ma perché questa consulenza indipendente secondo lei da sempre registra un contrasto politico istituzionale e di mercato così elevato? Beh, il tema è quello che un po' si diceva in precedenza, del conflitto di interessi. Ovviamente le banche da una consulenza indipendente avrebbero soltanto che da perdere in termini di ricavi. C'è l'esempio del Regno Unito, dove è stata agevolata la consulenza indipendente a partire dal 2013, dove si è appunto registrato una diminuzione dei ricavi bancari, e quindi ovviamente per il sistema bancario non è preferibile questa situazione. E poi non è preferibile per un tema di cui invece non si è accennato, è quello della cultura finanziaria dei risparmiatori. Aspetti però, prima della cultura, perché tanto a quello ci arriveremo comunque, perché poi lei resta con noi anche nel blocco successivo, quello riservato alla Cassa Depositi e Prestiti. Lei fa un esempio concreto, che è un'altra di quelle cose che secondo me bisogna chiedere al legislatore italiano e ai regolatori italiani di prendere e mettere nel nostro ordinamento, perché all'interno della Retail Distribution Review nel 2013 si prescrive che nel Regno Unito ogni intermediario è tenuto, quindi non solo le banche, stiamo parlando del complesso dell'industria del risparmio, ogni intermediario è tenuto a dichiarare se opera in modo indipendente dalle case di gestione, per cui la sua parcella deve essere pagata dal soggetto che riceve il servizio, o viceversa se riceve degli incentivi per la vendita dei prodotti finanziari. Quindi da questo punto di vista queste sono le cose da fare per evitare di trovarci poi le subordinate dicendo non sapevo niente nel portafoglio. Allora ci sentiamo dopo il Giornale Radio e torniamo a occuparci di un'altra banca non banca, in quel caso quella di Stato, la CDP. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caldaie Termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'Italia nostra è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati in diretta, cari ascoltatori. Siamo a cavallo, per così dire, tra l'argomento banche, con orecchio all'assemblea di Veneto Banca che è in corso, e un altro tema che riguarda in qualche modo comunque sempre il tema banche, però in realtà è la grande banca pubblica, per così dire, banca non banca, CDP, di cui è stato annunciato in questa settimana il nuovo piano industriale, un nuovo piano industriale di cui però non conosciamo le cifre, conosciamo come sempre solo gli annunci, le slide, pacchi di miliardi, 160 miliardi di mobilitati per l'economia italiana, e però continuiamo a tenere un orecchio ai vostri interventi sulle banche, e prego anche Carlo Alberto, se hanno delle novità dall'assemblea in corso di Veneto Banco, di intervenire e raccontarci. Commentiamo con qualche ascoltatore, cominciamo con Roberta che ci chiama da Pesaro. Roberta, prego. Sì, salve, buongiorno. Ciao Oscar, io ero anche in fare fermare il declino, quindi... Solidarietà e grazie. Anzi, sono stata anche eletta quindi in consiglio comunale. Vabbè, allora qualcosa di buono comunque è venuto fuori. Quindi ecco, una di queste, una delle battaglie era proprio l'ingerenza delle fondazioni all'interno delle banche. Io da Pesaro chiaramente parlo dell'esperienza di Banca Marche. Sì. Si sta parlando adesso di Veneto Banca, ma Banca Marche è una realtà lo stesso molto grande, è una banca del territorio che ha aiutato le imprese, dove però ci hanno rimesso i soldi circa 43.000 risparmiatori in tutta la regione, e si parla di cifre molto molto elevate. E il problema è stato anche l'ingerenza, a mio avviso, delle fondazioni, perché avevamo le due fondazioni principali, quelle Cassa di Risparmio di Pesaro e di Macerata, che detenevano circa il 67% di tutto il pacchetto azionario, quindi avevano veramente la decisione di chi mettere ai vertici, cosa fare, e hanno portato anche a questo, in questa maniera, anche alla distruzione di questa banca. Perché anche al caso di Banca Marche è un po' difficile, che il lunghissimo regno dei manager di Banca Marche a l'ordine barra servizio delle due fondazioni non rendesse chiaro alle fondazioni la quantità di sovraffidi, la concentrazione di sovraffidi in imprese che lavoravano in cordata rispetto agli interessi privilegiati dalle fondazioni stesse e dagli amministratori stessi. Hai ragione Roberta, perché secondo me di Banca Marche si parla meno, pur essendo più grande, rispetto ad Arezzo, solo perché ad Arezzo c'è il caso Boschi. Questo è il punto vero che fa la differenza per la politica. La banca grande è Banca delle Marche, la banca più grande che non è stata colpita maggiormente. Sì, sì. E quindi grazie Roberta per averci ricordato che, tra l'altro, uno dei temi non proprio secondari nel far valutare dai regolatori poi cosa fare su chi prende MPS, quale fusione avviene tra quale delle grandi banche popolari che sono quotate e mutano natura giuridica, quale tipo di fusione in holding, una o più nelle BCC, dipende anche dallo scambio di figurine che le fondazioni bancarie sono tenute per legge a fare per riequilibrare le proprie quote all'interno del sistema bancario italiano, perché questo è di fondo uno dei grandi temi dell'anomalia italiana, sempre difesa ovviamente invece come il grande sistema più sano del mondo. Federica da Napoli, come la pensa? Senta, io ho un'idea, vabbè, tutta mia, che tanto non mi fido di niente e di nessuno. E forse sarà per questo che ho soltanto, pochissimi soldi che ho fatto i buoni fruttiferi postali. Che adesso se vede in televisione vengono Diciamo che le poste all'attacco, no? Perché le poste dice voi non rischiate, noi siamo esclusi dal bail-in, venite da noi. Ma non solo, certo. Pubblicizzano anche la tassazione al 12,50, il che non mi va, perché è una distorsione rispetto ad altre forme di investimento alternativo. Poi discutiamo di dove finiscono quei soldi. Abbiamo interrotto Federica. Allora, quando lei ci ha parlato di buoni postali siamo scattati, come ha visto. Però ecco, detto questo. Io volevo chiedere una cosa. Tempo fa ho sentito un intervento del governo che riteneva necessario l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti per mettere a posto delle situazioni Ora, siccome io so che la banca dei depositi e prestiti dovrebbe servire per le imprese, sì, volevo sapere da voi che ne pensate di questo intervento, anche perché poi, cioè, lei la cosa che ma aspetti, lei dice in quanto io risparmio dei soldi alle poste rischio qualcosa, e questa è la domanda, visto che casse, poste e prestiti poi sì, si alimenta alle poste. Io rischio poco perché tanto sono no, ho capito, poco. Ho capito. Io volevo proprio sapere se era corretta la cosa. Tenteremo di darle una risposta adesso che ci occupiamo di casse e depositi. Proprio grazie di averci telefonato chiedendo. Gerardo da Roma. Gerardo? Sì, buongiorno. Buongiorno, ci dica. Un commento su, lei Giannino faceva prima un riferimento alla esperienze estere che possono essere d'aiuto per evitare questi problemi di coordinamento tra Banca Italia e Consob. Allora, in realtà il mio commento è in aiuto a quello che diceva lei, però c'è un'imprecisione in quello che diceva. Lei diceva che tra BaFin e Bundesbank c'è un protocollo di coordinamento. In realtà la cosa è che la vigilanza non è ripartita tra esatto. E trasparenza nel sistema tedesco. È così. Perché è tutta nella BaFin. Quindi non c'è no, è esattamente così. Adesso, per non annoiare in cose tecniche, lei ricorda che quando partì l'idea di riforma del 2005, partì un po' con quell'idea, poi si è perso tutto per strada. Adesso io non voglio, con i nostri ascoltatori, lei capisce, non è che possiamo fare un discorso se bisogna accentrare per funzioni, per soggetti e così via, però mi limito a dire che pur essendo correttissimo quello che lei dice, è tutto in BaFin, i rapporti rafforzati, cioè per esempio il fatto che il livello intermedio di cooperazione, quello in cui si valutano proprio gli ambiti di intervento, prima di valutare gli interventi su intermediari e banche, che ci sia un consiglio, si chiama proprio Finanzmarktaufsicht, il consiglio per il mercato finanziario, in cui c'è BaFin e c'è Bundesbank e c'è anche il governo. Ecco, per me quella maniera forte di organizzare lo scambio, tutto riservato, ecco, però è una maniera che non ci porterebbe a questa cosa che a me non piace. Io la considero un difetto fondamentale del nostro sistema, che Banca Italia e Consum si trovino poi, quando succedono i guai, a dire a puntare il dito ciascuna contro l'altra, perché da un'idea di debolezza istituzionale, e quindi questo non rende un merito né a chi ci lavora in queste istituzioni, però rende evidente che c'è un problema da sanare con delle riforme che possono anche non essere epocali. Io ci ho rinunciato invecchiando all'idea di avere un soggetto unico di vigilanza, però c'è sempre qualcosa da imparare, secondo me. O sbaglio secondo lei, Gerardo? No, non sbaglio, però solo per farmi notare una cosa, in realtà un consiglio del genere in realtà c'è anche in Italia, ma soltanto che per riunirlo, esatto, e poi per arrivare ad un vero coordinamento le cose poi non funzionano. Quindi il fatto di avere la vigilanza nello stesso posto, in modo tale da poter coordinare all'interno dell'istituzione il coordinamento necessario tra stabilità, sì, tra vigilanza di stabilità e vigilanza di trasparenza, io credo che sia una discussione che andrà di nuovo riaperta. Oh, quindi lei è favorevole, perché quando io nel 2005 scrivevo di questo mi dicevano tutti, ma no, ma tu pensi, ma cosa vuoi buttare a mare la specifica pluridecennale esperienza accumulata in Banca Italia da una parte, eccetera, in Consob dall'altra e così via. È sempre così, ognuno difende se stesso. È ormai chiaro che la cura del risparmiatore, nel senso di appunto non dargli fregature, diciamo così, sì, è parte della stabilità, certo, parte della tutela della stabilità delle banche. Perché, come si vede, osservazione aggiuntiva, su questo chiedo a Roberto e a Mario come la pensano, l'idea che poi la vigilanza, per esempio comune europea, sia riservata solo alla parte altissima degli istituti, perché solo quelli, se vanno in risoluzione o in per default, hanno conseguenze sistemiche, si rivela falsa. Perché noi con quattro banche che sono meno dell'1% del sistema del credito italiano abbiamo creato un effetto sistemico, caro Alberto, non credi? Ma credo che dobbiamo chiamare i meccanismi operativi alla vigilanza. Pensare che la vigilanza sia un'ispezione ex post che chiede accesso a dossier cartacei invece che avere accesso tecnologicamente ai processi informativi della banca è semplicemente ottocentesco. Quindi, al di là della necessaria collaborazione delle istituzioni, posso dire i meccanismi operativi della vigilanza che vanno completamente riscritti, e non è solo questione di dimensioni di banca, è una questione dei modelli operativi che ci stanno dietro, e mi aspetto che nel prossimo ciclo dell'unione bancaria ci sia l'imposizione di modelli di compliance trasparenti ex ante, quindi che siano, esatto, visitabili ex ante. Esatto, torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia, conti della belva. Eccoci tornati in diretta, ragazzi, aggiornamenti dall'assemblea di Veneto Banca. Ma sappiamo che i crediti deteriorati sugli attivi, cioè la situazione di difficoltà, la qualità del credito, Carus ha detto che supera il 30%. Siccome i numeri di prima di questa assemblea erano significativamente diversi, prepariamoci a ulteriori accantonamenti. Prepariamoci anche al fatto che il rapporto fra costi e income, cioè il rapporto minimo di efficienza della banca, nel caso di Veneto Banca è purtroppo molto molto peggiorato. Quindi chi dice che non ci saranno interventi sulla struttura organizzativa e sulle filiali, purtroppo non sta confrontandosi con i numeri. Non sono momenti buoni, c'è una situazione di tensione abbastanza elevata da quello che riusciamo a leggere sui social, nella grande tendone che hanno piazzato a Venegazù e che sta vedendo questo rito importante, che è l'ultima volta in cui una grande popolare di fatto applica il voto capitario. Non dimentichiamoci che la revisione del modello di governance delle banche popolari a questo ha puntato a febbraio, cioè a scardinare quel meccanismo di blocco che è sempre stato rappresentato dal voto capitario, cioè dal fatto che bastava che con un po' di pullman si raccogliessero soci benevolenti e alla fine il management bancario va e lascia passare implicito. Oggi non è più così e il passaggio SPA è fondamentalmente un passaggio di governance. Il voto capitario ha favorito molte oligarchie, già. E questo è un dato di fatto. Attenzione però che l'Italia è un paese dove le oligarchie prosperano indipendentemente dalla struttura societaria, sì. Quindi anche società di capitale, SPA eccetera eccetera, le oligarchie sappiamo perfettamente come operano, però è innegabile che molte di queste banche col sistema del voto capitario hanno alimentato non delle oligarchie ma la versione degenerata delle oligarchie, cioè delle satrapie. Ecco, questo mi sembra saggio dirlo, anche perché non c'è niente di peggio di coloro che poi le amano le oligarchie in Italia dicendo che sono benefiche, perché in realtà negli anni passati, scusate, chi come Giannino tentava di criticare i grandi manager bancari del Popolare veniva scornato regolarmente. Questo mi è capitato con Zonino, la Popolare di Vicenza, mi è capitato da tante parti, ad Arezzo quando sono tornato a fare l'assemblea, dicendo: ma voi anni fa com'è che non sentivate quando vi dicevo che vi compravano il consenso facile all'assemblea? Ecco, perché poi queste sono le cose che abbiamo toccato con mano. Andiamo a un altro grande annuncio di questa settimana, appunto quello di Cassa Depositi e Prestiti. Cassa Depositi e Prestiti annuncia di mobilitare 160 miliardi per la crescita, per la pubblica amministrazione, il piano industriale, gli annunci fatti da Costamagna, da Gallia, il presidente, il nuovo amministratore delegato nominato lì dal governo, anticipando il meccanismo di sostituzione di Gorno Tempini e di Bassanini che erano al vertice dell'istituto, 20 miliardi per la pubblica amministrazione, 15 di miliardi di risorse CDP alt e 5 di risorse di sistema, per le infrastrutture pubbliche 68 miliardi, di cui 24 da CDP, 44 dal sistema, significa quota Juncker europea, per le imprese addirittura 163 miliardi in 4 anni, 117 miliardi di CDP, 46 dal sistema, per il real estate, cioè quindi per patrimonio immobiliare e messa a reddito del patrimonio immobiliare pubblico, 4 miliardi di risorse CDP, 11 miliardi di sistema. La grande idea di diventare, è cambiata anche la qualifica per questi Cassa Depositi e Prestiti, diventa un ente aggregatore, diventa una specie di fondo dei fondi e ambisce e si candida a raccogliere capitale e equity per l'Italia e tutto il mondo. Diventa un private equity, diventa un venture capital. È un venture capital e diventa una grande mediobanca, perché naturalmente decide i settori, a chi dare credito agevolato e chi no. Tutto questo con la raccolta postale, tutto questo con un enorme conflitto di interesse dovuto all'azionariato, 80% tesoro, 20% fondazioni. Le fondazioni, quando Tremonti le volle, strapparono un grande rapporto di favore per il rendimento del loro investimento, l'hanno ristrappato prima di questo cambio di natura da questo governo Renzi, ottenendo un ulteriore innalzamento del payout dei quota dividendi che ci sarà nei prossimi anni. Ricordo solo che nello scorso mese di giugno, quando il governo Renzi annunciò questa accelerazione che quindi avrebbe cambiato i manager, Bassanini e così via, avrebbe detto Cassa Depositi e Prestiti diventi il braccio operativo della politica industriale e finanziaria del governo, Francesco Giavazzi scrisse sul Corriere della Sera tre domande su Cassa Depositi e Prestiti che per me rimangono fondamentali. La prima domanda, disse, ha operato in questi anni ILVA con obiettivi diversi. Per esempio, c'è chi si è opposto che quando il governo gli ha chiesto di entrare nell'ILVA, per fortuna, però il fatto che lo statuto i vieti alla cassa in teoria di investire in aziende in perdita, tutto questo ha significato comunque un freno. Salterà questo freno adesso oppure no? A questa domanda non c'è stata una risposta precisa da parte dei nuovi vertici che hanno dato questa, questo annuncio rutilante. Seconda domanda, perché l'utilizzo di questa straordinaria quantità di risparmio delle famiglie, risparmio postale, deve essere decisa dalla politica anziché da investitori privati? È una domanda pesante, capite? Perché ai tempi delle partecipazioni statali c'era un ministero delle partecipazioni statali, c'era un obbligo di accountability, per quanto poi è girato, ma al Parlamento. In questo caso la natura di Cassa Depositi e Prestiti fuori dal recinto pubblico, ma in realtà incardinata a una ferrea obbedienza al governo, fa sì che tutte le decisioni saranno in una catena di comando governo Gallia Costamagna, contrattate riservatamente con le fondazioni, ma diventano operative con tutte queste risorse. Accountability zero, perché ci e fuori dal, per convenzione europea, dal recinto pubblico. Seconda domanda molto pesante di Francesco Giavazzi. Terza domanda più generale di Francesco Giavazzi. Scriveva: vorrei che il Presidente del Consiglio, prima di nominare il nuovo vertice della Cassa, spiegasse che cosa pensa del rapporto fra Stato e mercato. Ad esempio, diceva, si senta spesso dire che senza sussidi pubblici non ci può essere innovazione. E a questo proposito alcuni citano il caso di iPhone, che a loro parere, sta parlando di Mariana Mazzucato, Francesco Giovazzi, non esisterebbe se 70 anni fa il Pentagono non avesse investito nella tecnologia da cui poi è nata la rete. Fesserie, diceva Francesco Giovazzi, perché... allora, ci dica Matteo Renzi, prima di annunciarci strepitose cifre dei nuovi interventi di GDP nell'economia, cosa pensa di queste tre cose? Non abbiamo avuto le risposte a queste tre domande. E io innanzitutto ringrazio Guido Gentili del Sole 24 Ore di essere qui con noi, perché oltre che essere editorialista del Sole, averlo guidato e così via, mi interessa capire una cosa. Bisogna, dal tuo punto di vista, Guido, essere più... comunque apprezzare il fatto che ci sono più risorse rispetto alla sfittica risorsa italiana, o chi pone domande come facciamo noi, come faceva Francesco Giavazzi, tutto sommato ha delle ragioni rispetto a questa mediobanca privata che in realtà è un ircocervo pubblico e che oltretutto è gravato da un grande conflitto di interessi, mentre ristrutturiamo il mondo delle banche aspettando proprio che le fondazioni bancarie si rimpannuccino. Tu che dici? Allora, innanzitutto buongiorno. Io volevo, ieri i vertici di Cassa Depositi e Prestiti, cioè Costamagna e Gallia, sono stati ospiti di un forum del Sole 24 Ore, del giornale, e al quale ho partecipato, e quindi ho ascoltato, diciamo, il dibattito, le risposte, le domande, eccetera. E la mia impressione è questa, diciamo, per dirla in termini nobili e accademici, mi sembra che la Cassa Depositi e Prestiti sia orientata, diciamo, a una funzione di cabina di regia dello Stato innovatore, riprendendo un po' il discorso che facevi te, riprendendo l'idea di Mariana Mazzucato, diciamo. Ecco, e questo, e qui mi fermo, diciamo, perché l'altra faccia della medaglia è una cabina di regia politica che riporta direttamente al Presidente del Consiglio Renzi, al governo, e una sostanziale convinzione che da qui si muove la crescita del paese, e con tutto quello che ne consegue, quindi una grande mobilizzazione di risorse per la crescita. E in questo vedo, e ho letto nella risposta che dava ieri a noi, ma anche in quello che poi hanno detto nelle conferenze stampa nei giorni scorsi, una totale sintonia, ad esempio, sulla sostanziale sfiducia negli investitori privati, e nel fatto che diciamo, c'è un giudizio assai molto negativo su il capitalismo familiare, diciamo, l'italiana, che certamente ha molti problemi, come sappiamo, a partire, diciamo, dalla crescita dimensionale, a partire dal management, insomma i problemi sono tantissimi. Però, insomma, qui traspare evidente un raccordo tra i nuovi vertici della Cassa Depositi e Prestiti e la politica, cioè il potere politico, quello del governo, una grande sfiducia nel sistema privato e una grande, diciamo, desiderio di entrare, diciamo, mani e piedi dentro, diciamo, il sistema con una forza d'urto imponente. Ora poi vedremo questo piano quinquennale a quali risultati porterà. però certamente le cifre in ballo sono comunque importanti, sono comunque grandi, e quindi sostanzialmente vedo, diciamo, sono mobilitate sulla base dei risparmi postali, come tu hai detto, e quindi questo, diciamo, è un aspetto che troppe volte si dimentica, e quindi io credo che siamo di fronte a delle operazioni in qualche modo a volte che possono essere utili. Penso ad esempio al ruolo di accorpare, diciamo, tutto quello che è lo sforzo per l'export, e quindi, diciamo, di rendere SACE-SIMEST. SACE-SIMEST, e questo mi sembra una cosa utile, però le domande continuano e le incognite continuano ad essere molte, molte, quindi voglio dire, per certi aspetti, per andare alla fine, le domande di Giavazzi attendono ancora una risposta, insomma, o forse una risposta c'è e va in direzione opposta. Esatto, e va in direzione opposta, perché il fatto che in realtà decisioni di questo tipo, cari ascoltatori, cioè una leva finanziaria che viene dalle tasche vostre, garantita dallo Stato, quindi esclusa al bail-in, vedi pubblicità, venite da noi, distorta fiscalmente al 12,5 perché gli altri pagano di più, tutto questo messo nelle mani di una catena di comando alla diretta espressione della Presidenza del Consiglio. No, non ne parlo in questi termini perché è Renzi, questa roba, chiunque sia il Presidente del Consiglio, è un fattore di distorsione temibile, io dico molto temibile. Io che non credo che la politica in Italia ci abbia dimostrato di essere più capace o meglio dei privati, che hanno un mucchio di difetti, di saper scegliere gli investimenti. Ragazzi, l'ILVA, la sola ILVA, Finsider, nei 10 anni prima della privatizzazione ha perso dell'epoca in lire, più di 27 mila miliardi di lire all'epoca, capite? Questo è il bilancio dello Stato imprenditore italiano, o no? Cioè, ci sarebbe anche una cosa da aggiungere: tra le nuove mansioni della CDP ci sarà quella anche di gestire il cosiddetto turnaround, cioè la ripresa e il recupero di società in difficoltà, quindi con conti in rosso, ma che hanno prospettive. Ma con lo statuto di CDP che dice che non deve fare investimenti, come si coniuga? Ma in realtà è sufficiente, diciamo, siccome questo vincolo vale per la Cassa Depositi e Prestiti ma non per i fondi specifici che da essa, esatto, vengono gemmati, è chiaro che il problema potenzialmente esiste. Perché quando si dice aziende non decotte, aziende in difficoltà che necessitano di un turnaround, allora a me la domanda sorge spontanea: non esiste nessun operatore privato in grado di gestire il turnaround di aziende in crisi, ma dalle potenzialità e dalle prospettive evidentemente potenzialmente recuperabili? Questa è una zona grigia dentro la quale può stare tutto e il contrario di tutto, e questa è la cosa su cui bisogna vigilare. Ma gli investimenti in quella catena di alberghi piuttosto che un'altra cosa sono un contributo strategico all'ottimizzazione dell'offerta alberghiera italiana o sono piaceri? Oppure abbiamo titolo per pensare che siano delle cose discrezionali? Provo a fare la voce fuori dal coro. Posso dire che tutto sommato che si torni a parlare di politica industriale non va male, però deve essere trasparente, e la scelta industriale deve essere precompetitiva. Non si può propagandare un piano industriale late stage o di turnaround, perché se io intervengo nelle fasi a valle del capitalismo distorgo l'allocazione corretta delle risorse. Devo intervenire nelle fasi a monte, dove faccio ricerca di base, infrastrutture, piattaforme di abilitazione. Non posso intervenire a valle. Se intervengo in settori come il turismo, non devo intervenire nella recettività, devo intervenire nelle infrastrutture, che ne so, di prenotazione e di governo e di trasparenza, perché a quel punto consento al capitale privato di basarsi su un gradino più funzionale, più strutturale. Io do il benvenuto a una volontà, fatemi dire, pubblica di creare infrastrutture di nuova generazione che non sono soltanto asfaltatura di strada. Di crearle, nel senso di favorirle, Oscar. Il keynesiano della compagnia, qua è nostro amico Mario, non me. Anche tu vedo che sei. Ogni tanto, anche solo per creare un po' di dibattito intero. Crearle, sì, fammi dire, alcune cose vanno create. Qual è il problema? Che io contesto la scelta industriale di questo piano, che invece va a valle, cioè va a interferire direttamente con vantaggi fiscali e in distorsione rispetto all'allocazione dei capitali privati, settori che invece devono essere affidati al mercato. Cioè è un atto di grandissima sfiducia, ha ragione Guido, è il più grande atto di sfiducia nel capitalismo italiano scritto negli ultimi 10 anni, e secondo me bisogna prendere atto che da una parte forse è fondata la critica al capitalismo italiano, e quindi un po' di autocritica va fatta, dall'altra interveniamo sul che cosa, cioè interveniamo nel merito di questo piano industriale. industriale. Sentite, l'IRI nei momenti di massimo apice, l'IRI ha avuto un attivo che superava i 270 mila miliardi di lire. Quindi diciamo che valori euro attuali siamo intorno ai 137-138 miliardi di euro. La CTP ha un attivo di 400 miliardi. Io, alla luce della storia, una roba che ha un attivo tre volte superiore a quello dell'IRI, ho l'obbligo di dire agli ascoltatori, diffidino del mio pensiero liberista, ma l'IRI, grazie a Andreatta, uno dei più grandi italiani che abbiamo avuto nel secolo scorso, quello che mandò Banco Ambrosiano a liquidazione coatta fottendosene della DC di Andreotti, dello IOR e della mafia che c'erano dentro, e questo varrebbe da solo a meritargli dei monumenti, e che poi con Van Miert sottoscrisse un protocollo per mandare in liquidazione coatta anche l'IRI, e per questo monumento a ogni angolo, perché politici così non ce ne sono in questo paese. Allora io ho l'obbligo di dire che con attivi tre volte superiore a quelli dell'IRI nella sua fase apicale, o questi problemi ce li poniamo prima, o se rimaniamo muti a fare clap clap, oh che belle tutte queste centinaia di miliardi che ci promettete, perché voi sì che non saprete evitare gli errori dei cattivi privati che non sanno fare venture capital, private equity, eccetera eccetera, distinguere un turnaround di qualcuno che deve restare in piedi, ha bisogno di capitali, da qualcuno che deve chiudere. Allora rinunciamo a tutto, lo Stato ci dice che la lezione della storia che crediamo di aver imparato è tutta sbagliata, Mario. Sì, sì, sì, no, questo effettivamente è il rischio. Io sono veramente molto perplesso. D'altro canto, diciamo questo, Cassa Depositi e Prestiti ha anche un problema di redditività. Con i tassi a questo livello, Cassa Depositi e Prestiti ha un margine di gestione del denaro sempre più sottile. Quindi giusto e condivisibile e comprensibile operare su ambiti che hanno una redditività potenziale più elevata, a patto però che si faccia attenzione alle interferenze della politica e soprattutto alle contaminazioni, diciamo, di determinate situazioni. Non vorrei mai che in un futuro non troppo lontano Cassa Depositi e Prestiti ritenesse opportuno e necessario finanziare settori che sono declinanti, che sono declinanti, da dove c'è un disimpegno dei privati e che hanno rilevanti problemi ancora attualmente con ricapitalizzazioni eccetera, solo perché hanno una qualche criticità. Io il nome di questo settore non ve lo dico, cercate di capirlo esatto, da soli. Ma è ovvio che siamo banali. A conferma dal bilancio 2014 di cui mi ero portato qua gli estremi, a conferma di quello che stai dicendo, il margine di interesse si attesta nel bilancio 2014 a 1,2 miliardi di euro sulla raccolta complessiva, che risultava in crescita dell'11%, ma il margine di interesse a 1,2 miliardi di euro significa meno 54% rispetto all'esercizio precedente, esattamente per quello che dicevamo. Quindi vogliamo anche dire, in merito al risparmio postale che sta sfruttando questo momento di difficoltà di reputazione del sistema bancario italiano, anche se dovremmo fare e sempre distinzioni fra banche che vanno bene e banche che bene non vanno, c'è da dire una cosa, che come fa a promettere garanzia statale, rendimento infinito e perenne, a fiscalità deformata, uno Stato che poi usa i soldi del risparmio postale in queste avventure, non so come chiamarle, perché il corporate venture capital, venture questo capital vuol dire, è un'avventura. Stiamo parlando di avventurismo garantito dallo Stato. PCC, è aperto con questa cinese. Appunto, no, però almeno hanno un jingle interessante, quindi manco suonano. Comunque qua, ragazzi, l'utile netto, anche l'utile netto era in diminuzione, perché nel bilancio 2014 2,2 miliardi di euro, non trascurabile, però in riduzione dell'8%, 8,5% rispetto al 2013. E quindi io non so cosa dirvi. Noi abbiamo questi dubbi, ringraziamo chi come Guido Gentili ci aiuta a coltivarli per memoria storica. Temo, Guido, che chi ha una memoria storica abbia l'obbligo di essere un pochino più puntuto nell'alimentare dei dubbi, non pregiudizi. Magari ci stupiranno, magari ci faranno rimpiangere Raffaele Mattioli, Beneduce, tutti coloro che la generazione dei Nizziani, che hanno dato un'impronta virtuosa, lo riconosco anch'io che sono un antistatalista, alla grande epoca in cui Stato ha significato in Italia accumulazione primaria di risorse finanziarie, di apparati produttivi eccetera. Magari, però io dei dubbi ce l'ho, e quindi Guido, chi ha visto ha l'obbligo di ricordare, ecco, questo è quello che, questo è quello che dico. Cari risparmiatori postali, vi siete accollati sulle spalle anche il grande onere e grande privilegio di finanziare la prossima grande mediobanca di Stato non dichiarata, che oggi nasce sotto le trionfali bandiere di Costamagna. Una cosa, tu dici la Mediobanca, la Mediobanca che fu, perché ora Mediobanca non fa più venture capital e private equity, ma fa private banking. Hai perfettamente ragione. Per cui ragione. Ci siamo spostati dal rischio al consumo, no? Esatto. Praticamente a distribuire. Per carità, va tutto bene, Mediobanca risponde ad azionisti privati, esatto. Non è più un centauro, ha una missione molto precisa a cui adempiere, quella funzione è sparita, c'è un vuoto, c'è comunque una drammatica carenza di imprenditorialità privata in questo paese, perché imprenditori privati in questo paese, a parte gli eroi piccoli e medi che si fanno il mazzo e affogano in un paese che li taglieggia fiscalmente, quanto più saliamo, tanto più iniziano i balbetti e diminuisce la propensione al rischio. Ricordiamo chi ha comprato numerose utilities finto privatizzate negli anni 90 a rendimento garantito e a tariffe pubbliche garantite. Se questa è l'imprenditoria, io voglio il socialismo. D'accordo, io no. Questa è la differenza, Mario. Io no. Ma almeno chiamiamo le cose con il loro nome, anziché con questo velo di finzione. Allora, se mi dici appunto che bisogna chiamare socialismo la CDP, ok, ma non necessariamente la CDP, io sto parlando di questo, del sistema paese di questo paese e delle sue oligarchie predatorie e delle sue satrapie. No, questo sai che la pensiamo allo stesso modo, non so se la risposta sarà questa, lo vedremo e intanto torniamo tra un minuto. Della belva. Bene, dopo CDP il socialismo vero, quello dichiarato, cioè quello cinese, con il nostro appuntamento settimanale con Rita Faticuso da Pechino, e lo sfondo è come sempre il jingle. Have you guys heard what's going on in China? Ecco, il jingle ufficiale fatto dal partito del tredicesimo piano quinquennale che è in corso. Sono soldi spesi, musicalmente spesi bene, insomma, posso dire questo. Devo dire che sono anche molto carini ed efficaci. Carini, non carine, non ho parlato solo di femmine, non vorrei, non mi faccio beccare anche sul sessismo. Allora, Rita, buongiorno, grazie di essere con noi. Beh, vi saluto e sono contenta di essere di nuovo. Aver risolto il problemino la settimana scorsa. Vabbè, era un problema di gala dinner, ragazzi. Ci sono anche momenti ludici. No, ma noi siamo, Pechino, noi siamo felici dei tuoi momenti ludici, anche perché vediamo sempre. Dovuti per lavoro, sì, adesso non ti voglio far figurare come se fossi una che passa il tempo tra banchetti. Qui naturalmente credo che siano 5 giorni che ci sono le foto sui giornali del fatto che lì non si vede il colore del cielo, sempre le solite storie, ma noi vorremmo parlare di un'altra cosa. Sento delle orrende scariche nella linea, ma ci sei, ci senti? Ci sono, ecco. E vi sento benissimo. Perfetto. E sono un po' incavolata, devo dire. Ecco. Perché su China Daily di 2 giorni fa è uscita una notizia che non è completamente, diciamo, veritiera rispetto a quello che sono i fatti, ma non c'entra niente la libertà di informazione, c'entra il fatto che la Cina per la prima volta ha lanciato in orbita un satellite per la ricerca della materia oscura, e una cosa complicatissima e di avanguardia, e di cui la Cina è molto molto proud, orgogliosa, ma non ha scritto, non è stato citato, come invece io ho scritto su Sole 24 Ore, almeno sull'online, che l'Italia e la Svizzera sono stati partner di questa avventura. Vedi, quindi abbiamo un legame che funziona molto, ma in questo caso il merito, no, però, perché non lo hanno scritto? Perché forse noi non siamo abbastanza, come dire, attenti alla comunicazione, a insistere sul fatto che nel 2013 siamo noi che abbiamo fatto questo accordo con la CAS cinese, che è appunto l'Accademia delle Scienze, che ha attivato questo programma in base al quale poi è stato lanciato appunto martedì scorso nel Gansu, una regione centrale della Cina, stagione Tibet, questo satellite che si chiama Dampe, che sarà in orbita per 3 anni a cercare questa materia oscura, e l'abbiamo fatto noi con i nostri scienziati, con l'agenzia spaziale, con le nostre risorse e insieme agli svizzeri. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro e continueremo, immagino, a farlo, perché il programma dura per 5 anni. Però diciamo, siamo in questo understatement, secondo me qualche volta non ci aiuta. Allora bisognerebbe un po' essere un po' pushing in questo, dire ok, voi andate a cercare la materia oscura, ma perché la materia oscura? Beh, la questione è complicatissima, se ve la so spiegare non mi basta una trasmissione intera dei Conti della Belva. Quello che ci serve di capire è che andiamo in Cina insieme alla tecnologia italiana e svizzera, va a cercare in orbita questa materia oscura, se ha delle particelle, delle situazioni tali che non possono essere visibili a un telescopio, quindi quella parte dell'universo che in qualche modo può permettere anche applicazioni di vario tipo, e voi mi avete capito quali, e comunque molto avanzate. E questa è l'innovazione, ragazzi. Il piano quinquennale dedica un capitolo a questa innovazione, ci fa piacere, Rita, ci fa piacere, Rita, che tu lo citi, perché parlavamo di un altro piano quinquennale invece che si occupa di ristrutturazione di aziendine in crisi o di investimenti in alberghetti sotto casa. Cioè, allora mi sta benissimo, anch'io voglio fare il socialismo della materia oscura. Io, guarda, la settimana scorsa ero con 3 ragazzi italiani che sono andati a lavorare in NASA, uno perché ha messo a punto una tecnologia per deviare gli asteroidi. La NASA, okay, è un'azienda decotta. La NASA è un'azienda decotta, sì, sì. L'altro è andato all'MIT per studiare le diete alimentari per viaggiare su Marte, italiani che si sono fatti questa strada qua. Allora io sono felicissimo che mettiamo soldi parapubblici per fare cose che nessun privato può fare, ma se lo fanno i veri socialisti. Ferma, fa spiegare Rita. Scusate, posso chiedere? Ci hanno pagato questa volta? Addirittura. No, ci hanno pagato, quindi li abbiamo messi. Quindi ci hanno pagato per fare. Beh, però quando i socialisti cinesi invece pagano, voglio dire, c'hanno un piano quinquennale che perché è un capitolo hanno, intero. Perché no, ascolta, perché questa tecnologia loro non ce l'hanno. Io ero solo così un po', come dire, sul fatto che su China Daily forse una menzione alla partnership andava fatta, ma siamo noi che dovremmo forse, ma più fanno la menzione più è evidente che sono in debito tecnologico, capisci? Cioè, quindi sono cose che i regimi non amano molto sottolineare. Ma la notizia è che noi possiamo dare tanto, ragazzi, ancora una volta lasciamo stare la NASA. No va bene, ma infatti hai ragione in questo. Hai ragione in questo. E devo dire che siamo veramente un paese abbastanza crazy da questo punto di vista. È veramente strano l'Italia. Perché non tanto la Cina, ma l'Italia. Fa queste cose, ma non inconsapevolmente, dici. Però io voglio capire. No, siamo bravissimi a farle. Questa roba è stata veramente fatta a puntino negli ultimi anni. Rita, non ti sentiamo più perché c'è il partito, non sta gradendo quello che stai dicendo, che hanno sbagliato a chiudere su China Daily, e guarda caso la linea è andata. Intanto ti abbracciamo, grazie, speriamo di migliorarlo questo problema tecnico. Traffico. Della Belva. Ed eccoci tornati dopo aver appreso che anche il China Daily sottovaluta l'apporto italiano alle ricerche attraverso satelliti della materia oscura nel mondo, e quindi il capitale pubblico serve, una specie di lezione implicita della storia ai nostri dubbi su GDP. Però andiamo all'ultima parte del nostro rituale scansione della trasmissione con Renato Cifarelli. Ciao Renato, come stai? Buongiorno, bene, scusate l'assenza. No, ma che assenza? Almeno qualcuno che produce accresce il perimetro della propria azienda. Non di Stato ci vuole. Dal budget di quest'anno dovrò pagare una montagna di tasse, per fortuna, perché l'azienda vuol dire che guadagna. Guarda, lasciamo perdere sto mese tra 16, 21 e 31, cosa mi esce? Lasciamo. Scusa, il 16 era il buon Natale del nostro amato governo. Lasciamo perdere. Tax Wars, vero? Sì, tax Wars, vestito da Stato. Lo Stato. Hanno detto che te le toglievano dal 17, scusami. Lo Stato è il lato oscuro della forza. Grazie. Allora Renato, che esempio ci dai del non si può fare questa settimana? È di qualche settimana fa, però me l'ero segnato e mi piace troppo, certo, per lasciarla passare. Ed è una cosa dei giudici sui giudici, che sai che i giudici giudicano i giudici. Certo. Quindi... Allora, c'è stata una norma che diceva che i giudici a 70 anni devono andare in pensione. E loro sono insorti, perché questo significava perdere la posizione in molti uffici apicali. Mario Cicala, che è presidente della sezione tributaria, quindi il nostro carissimo amico della Cassazione, ha impugnato il provvedimento di collocamento a riposo anticipato. Sai perché? Perché è ritenuto lesivo della sua legittima aspettativa a rimanere in servizio. Mica come tutti quelli che con la legge Fornero hanno visto l'orizzonte vitale cambiare dalla sera alla mattina. Allora, la cosa divertente naturalmente è che nel frattempo CSM, siccome questi dovevano andare in pensione, aveva fatto le selezioni per prendere gli altri. Quindi, secondo me, tempo 6 mesi, abbiamo 2 giudici per ogni posizione. Ma questa è una cosa... Un paio di note. Allora... questo è un paese dove tutti vogliono andare in pensione e i giudici non vogliono farlo. No, quindi, esatto, o il lavoro che fanno è leggero a questo punto. Ma no, sono delle vittime. I benefici sono molto alti. Ma non capisci, sono eroi dello Stato. Ma perché hai questo dubbio sul fatto che loro non si vogliono? Insomma, che i giudici che giudicano i giudici, mi sembra che i giudici vincano sempre e i cittadini paghino. A questo che aggiungi, aspetta, ci sono i paradossi, non sono finiti lì. Il Consiglio di Stato alla fine ha emesso comunque un'ordinanza cautelare in cui, senza pronunciarsi nel merito della legge del governo, ne ha sospeso gli effetti. Per effetto di questa sospensione del Consiglio di Stato, 52 alti magistrati in ufficio apicale quindi adesso non vanno in pensione e ottengono di aggirare dai loro colleghi magistrati amministrativi la legge che invece il governo e il Parlamento aveva approvato. A questo punto, sorpresa nella sorpresa, Guariniello, il giudice Guariniello di Torino, il castigamatti delle imprese, quello che perde sempre, ma va sempre sui giudizio perde, però va sempre sui giornali per le sue eclatanti indagini. A quel punto, di fronte all'idea di essere indicato sui giornali come beneficiario di un intervento corporativo del Consiglio di Stato a favore dei giudici apicali che aggirano la norma votata dal Parlamento, spettacolo, annuncia ai giornalisti che lui si dimette per protesta comunque prima della magistratura. Capisci che l'onda mediatica della ricerca di un titolo, dal mio punto di vista, lo dico per rispetto personale, professionale, tutto quello che volete di Guariniello, è comunque il timbro sulla fine della sua carriera, perché non solo purtroppo conferma attraverso la sua protesta che l'autotutela corporativa della magistratura esiste, è sotto i nostri occhi ed è evidente, ma protesta perché riesce a ottenere un titolo come avversario di un provvedimento che comunque è nato per difenderlo, contro la logica generale, perché i cittadini italiani dalla legge Fornero hanno avuto l'orizzonte di vita, ripeto, cambiato la sera alla mattina e non hanno avuto nessun tribunale popolare fatto di loro pari che dava loro ragione. E però queste sono le contraddizioni della Repubblica Italiana. Del resto, oggi l'ennesima notizia, dopo i finanzieri incarcerati dai loro colleghi perché beccavano le tangenti su come diventare finanzieri in maniera geniale, però lo sai, che era millantato credito intelligente, cioè tu dammi i soldi, se tuo figlio passa me li tengo, se tuo figlio non passa io te li do indietro, è fantastico. Cioè, punto, tanto bastava aspettare, onesta, statisticamente bastava aspettare. Dopo geniale questa bella cosa questa settimana, stamattina invece un'altra di quelle notizie che ti fanno veramente, no, passare la voglia di passare il mese di dicembre a pagare le tasse, di fronte al fatto che il giudice tributario a Milano, giudice Vassallo, arrestato mentre intascava la tangente da 5.000 euro che chiedeva per di più spudoratamente a una multinazionale, quindi non è che la chiedeva a una multinazionale, come signorando che la multinazionale, la prima cosa che fanno è dice: ma questi per chi ci hanno preso? Ecco, e infatti lo hanno giustamente arrestato, secondo me. Che dici, Renato? Ma sai, le multinazionali tra l'altro negli ultimi anni hanno dei codici etici che sono pazzeschi, esatto. Rischi, cioè se un qualsiasi loro manager pagava la tangente dicendo ma siamo in Italia, la tangente la devo pagare, quello rischiava lui dall'azienda stessa buttato fuori e incarcerato. Abbiamo i giudici tribunali a Milano significa il 37% del totale delle multinazionali presenti in Italia, giudici tributari che chiedono le tangenti alle multinazionali e fanno la predica a voi cari ascoltatori, dicono che l'etica fiscale manca a voi cari imprenditori, in galera devono finire. loro però in galera, loro, grazie amici e compagni dei Conti della Belva, perdonate questo urlo che mi usciva veramente dalle viscere. Ci sentiamo però anche sabato prossimo, il 26, noi ci siamo ai Conti della Belva, continuate sulla 24. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, le tempi.